Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oh, evviva, evviva. Martedì. Io sono contento perché già si sta andando verso il weekend, io verso le vacanze. Cominci a pensare al weekend dal martedì. D'estate, sì, ci sono, poi ne parliamo ed è anche un argomento un po' controverso. Comunque esultiamo perché finalmente la maschera è caduta. Cioè la regressione c'è, è ufficiale, una regressione che si sta estendendo a tutti i livelli. E tu sei contento, eh? Sono contento perché la tesi si realizza e l'ultimo livello a cui si è arrivati è quello dell'alimentazione, perché in questo momento, caro K, Madonna, Jennifer Aniston e Lady Gaga probabilmente staranno mangiando degli omogenizzati tutte insieme per bambine, non lo so, tutte insieme faranno anche delle riunioni così, però quella è la nuova moda, capito? La nuova moda in fatto di diete, la dieta detta del regresso alimentare, anzi del regresso alimentare. E perché gli omogenizzati, K? Perché le porzioni sono piccole, innanzitutto. Sì. Quindi nell'arco di una giornata si consumano a intervalli di tempo brevi, capito? Mi piacciono gli omogenizzati. Quando vado dal dentista che mi spacca la bocca, alla fine sono contento di una cosa, sì, che poi sono costretto, o comunque giustificato, a mangiare gli omogenizzati. Sì, se le porzioni sono piccole, due cucchiaiate, anzi, lo succhio uno intero, così, come Gassman quando mangiava i creme caramel. Sì, ma ho capito. Creme caramel. Quante ne mangi? Se sono piccolissime le porzioni. 2, 3, 4, 5, 6. Tutte insieme? Sì. No, bisogna fare un compri diversi, no? Pollo, vitello, poi c'è anche il fruttino alla che fine. Che schifo. No, che schifo, scusa, lo fa Madonna. Il tuo bambino cresce rapidamente. Ecco qualche consiglio per aiutarlo a crescere molto meno rapidamente. Il delicato momento della pappa. Pappa. La prima pappa, all'inizio, è solo una sequenza di... Il tuo bambino per mesi si è nutrito esclusivamente di erba. Poi, d'improvviso, tutto cambia. Ed è il momento giusto per conoscere nuovi sapori. Ad esempio, pesticidi dannosi e tutti i prodotti chimici pericolosi. Così lo abitui fin da piccolo al sapore del pesce, cioè di un alimento importante, ricco di sostanze chimiche e pilische. E se rifiuta qualcosa, gliela riproporrai di formato sempre più grande e di consistenza sempre maggiore. Così puoi stare tranquilla per il futuro di tuo figlio in un mondo più problematico. Problematico. Qualcuno ricorderà che poco tempo fa abbiamo assegnato il premio Pirla dell'anno al regista Lars von Trier per le sue dichiarazioni naziste al Festival di Cannes. Ricordiamo che il premio rimane di Lars von Trier almeno fino al 31 dicembre, quindi qualunque pirlata... Sì, doveva essere così, però Però cosa? Qualunque pirlata è esclusa dalla competizione. Secondo me si è manifestato un pirla che forse è più pirla di Lars von Trier. Più pirla di Lars von Trier. Bisognerebbe discuterne, cioè parliamone. Allora, è l'interprete di Barack Obama. Ma cosa c'entra l'interprete di Obama? Beh, c'entra, perché ha tradotto così male quello che Berlusconi diceva a Obama durante il G8 che Obama, poverino, è rimasto lì immobile, senza battere ciglio. E ci credo, come poteva capire qualcosa? Non è che fare l'interprete, ti metti lì e traduci parola per parola. Cioè, quando Berlusconi ha parlato di toghe rosse, come è stato tradotto, secondo te? Red Hermes. Appunto, Red Hermes, che non vuol dire niente, indica un capo di vestiario dei giudici di un certo colore. Ma è lì che deve venire fuori la vera bravura dell'interprete. Deve appunto interpretare. Non è il traduttore. Esatto, è un interprete. Quindi io tremo anche all'interpretazione o alla traduzione della frase quasi quasi faccio un predellino bis. Aspetta, guarda sul traduttore automatico. Cosa dice? Almost, almost, I do a footboard bis. Ma scusa, povero Obama, avrà pensato o è impazzito l'interprete o è pazzo quest'anziano che ho davanti. Sì, ma non è che Obama e il suo interprete siano tenuti a sapere che in Italia la parola predellino significa fondare un nuovo partito. No. E quindi la figura da pirla dell'anno resta di Lars von Trier. Grazie. Ma grazie cosa? Non sono mica per te gli applausi. Lo so, ma quando sento degli applausi, Drago, mi viene spontaneo, no? Dire, grazie. Ma è il mio ego, non sono io. Asilo nido. Allora, qui noi dobbiamo intenderci, io voglio capire una cosa su questo federalismo. Ho capito che un posto in un asilo nido deve costare... Asilo nido. ...allo stesso modo a Reggio Calabria come a Reggio Emilia. siamo d'accordo, bisogna far così. Asilo nido. Non ho ancora capito che risposta viene al seguente problema. Primo, cosa intendiamo per asilo nido? Asilo nido. Cioè, gli asili nidi italiani che standard devono avere? Asilo nido. Secondo, quanti posti d'asilo nido ci vogliono per i bambini italiani? Asilo nido. L'Europa dice 33. 33? Su 100 bambini. In Emilia sono 30. 30. La media italiana è 10. 10. A Reggio Calabria sono 2. 2. Asilo nido. Io voglio, per discutere di federalismo, sapere prima che obiettivo ci diamo per i posti d'asilo nido degli italiani. Diamo il diritto di asilo nido. Un'altra figura da pirla l'ha fatta la signora Bambina Moratti. Pensavo tu. Anch'io delle volte, però la signora Bambina Moratti, dai, cosa? Ufficiale. Ma no? Ormai, dai, da storia vecchia. Ma no, ma non mi riferisco alle elezioni, mi riferisco al concerto poco prima del ballottaggio, del voto del ballottaggio, no? Perché si è verificato praticamente il più clamoroso scambio di persona della storia del rock. Ma che scambio di persona? La sostituzione di persona vera e propria. Saprai che invece di Gigi D'Alessio sul palco si è presentato Brian Ferry. Eppure anche la Moratti era convinta che arrivasse Gigi D'Alessio, e quando sul palco è salito Brian Ferry lei è caduta dalle nuvole. Ma poverino, ma anche sti scherzi qui, attimi di imbarazzo pazzesco, perché la povera Bambina Moratti mica sapeva chi era quel tipo lì tutto azzimato che ci aveva davanti. Lei sul momento l'ha scambiato per Cesare Maldini e gli ha chiesto: ma Cesare, cosa fai qui? E lui e Brian? E lui non ha capito un tubo, nemmeno sapeva come mai di colpo era lì a Milano in Piazza Duomo con la russa indemoniato di fianco che lanciava fiamme dagli occhi. Però in fondo Brian Ferry è sempre Brian Ferry, no? In fondo, proprio in fondo. In fondo, in fondo. Però poi si sapeva che Brian Ferry è un conservatore, quindi bisogna saper distinguere tra l'uomo e l'artista. Ma Slave to Love l'ha fatta quella. Beh, ovvio, l'ha dedicata anche a Silvio, no? Sì, schiavo dell'amore. È amore, insomma. Slave to Love. Slave to Love. C'è ormai un allarme generalizzato K sui bambini di oggi. Qualche tempo fa, ti ricorderai, citavamo una ricerca che dimostrava in modo impietoso che man mano che le generazioni passano si indeboliscono. Quindi adesso la Coldiretti aumenta la preoccupazione, perché la Coldiretti si lamenta per il fatto che in Italia 8 bambini su 10 non sono mai entrati in una stalla. Tu ci sei già entrato in una stalla? Ma no, sono entrato a casa tua, che insomma non è tanto diversa. Ma una stalla con le mucche, con le capre, mai? No, ci sono i gatti da te, ma insomma... Comunque, Drago, noi abbiamo una certa età, scusa, non è una cosa da tutti i giorni portare i figli a vedere le mucche o le caprette nella stalla. Appunto. Possiamo, Drago, seguire l'esempio di Rocchetta di Vara e inserire l'ora di stallatico, cioè no, di stallaggio nel programma scolastico. Vabbè, speriamo che ci sia qualcuno all'ascolto che si dia da fare in questo senso, speriamo. Perché altrimenti le prossime generazioni saranno composte da persone deboli fisicamente, ma soprattutto che non hanno mai visto una stalla. Sì, ma è più grave la prima mancanza. Ma perché? Delle stalle se ne può anche fare a meno. Ma forse. Forse. Adesso non sarà mica essenziale aver visto una stalla, Drago. No, però cos'è che ti inventi? È un sintomo della vita artificiale che fanno oggi i bambini. Sì, una vita virtuale, fatta di immagini che non hanno corpo, non hanno calore e poi non hanno odore. Vabbè, in effetti, l'odore della stalla, se non lo senti, non ci credi. Anche quello di casa tua. Slave to love. Siamo tutti schiavi dell'amore, tutti quanti schiavi dell'amore, qui a Chiedo Asilo e radio24.it. Aspettiamo i vostri messaggi dell'amore. Con un solo messaggio salvate la vita di Drago. Slave to love. Andate a stretto le tese. Slave to love.